Cerca mía. Thank you. tutta questa voce è un sasso, sì, nella vetrata della rassegnazione a questo fottuto stato delle cose. Tu vivi giorno dopo giorno in questo stato di merda, ma ancora non ci sei annegato. Ascolta Luke in Rosa, risofrate in piena azione, rime su film, senza più freno un'alluvione. Io odio chi ha fatto sempre di tutto per spargere in tutto il mondo miseria e lutto. Allo stronzo Yankee, il padrone della guerra, che la guerra di questa terra bombardata, inquinata, sfruttata fino all'osso. Io potrò rime d'attacco a più non posso, e passo dopo passo senza mai perdere il passo. Armo rime e ne scarico dritto addosso a chi opprime, reprime, sopprime intere popolazioni. Attenti, oramai son troppe le contraddizioni, un giorno o l'altro. D'ora in ora ci deve essere giustizia per tutti, dal basso ci deve essere giustizia. Yeah. tutto a provare che sono un simulato che si non ha detto e dire di un potere occidentale al capitale di questo giorno di signore non si vuole fatto male ma non è che non si fa solo cappello ma vuole capire che io come detto bello regalo la testa la figlia per un bosco a portolo nella testa di polizia la giorno e va a venire poco voi mi stavo vestito e le nuova anche a portata dove va vestito e mi dire nascondersi sarà individuato e nel cuore della notte sarà stangato e mi dà la posta e se fa la notte non voglio la notte e mi colpisci con le mani e me ne faccio e non voglio la dieta con la faccia di papà di tutti con la notte e so di tutti da ti faccio in faccia vedo più che vero so di tutti da ti faccio in faccia vedo più che vero torto, l'unico fascista buono è fascista morto e sepolto. Thank you. Come on. Un coraggio, una paura, un coraggio.